我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。请欣赏普契尼的歌剧《艺术家的生涯》，这是1992年斯卡拉歌剧院演出时的盛况。饰演男主角鲁道夫的是帕瓦罗蒂，饰演女主角咪咪的是科特鲁巴斯，饰演马切洛的是卡布奇里，饰演巴切洛情人的是波普，由卡洛斯克莱伯执棒。下面请连续欣赏。 Come se addosso mi piovesse in stelle per vendicarmi a fuoco un farol. E poi nei cieli vigili dai mille pomignoli Parigi e penso a quel padrone, vecchio gabinetto e dannatore che vive in ozio come un gran signore. Le sue vendette all'estero e tornò un ricerco. Le sue feste che fa sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensiero. Con freddo cane ed io Marcel non ti nascondo che non creda al sudore della fronte. Pugliattate le dita ma se ancora le diresti mollate tu in quella grande acciaia che muore di ricetta. L'amore è un caminetto che sciupa troppo e in fretta dove l'uomo è fascina e la donna è l'alare. L'uno brucia in un soffio e l'altro sta a guardare. Ma intanto qui si gela e si muore di nedia. Fuoco ci vuole. Aspetta, sacrifichiamo la sedia. Eureka! Prova a spingere. Aguzza un genio di me a farti piangere. Fanno il rosso, puzza la tela dipinta. Il mio dramma, carnetto in programma, ci smardi. Quelle già la forza, mi geli. Non mi dice che si smardi. traccia. Attendi. Lo trovo scintillante. Vivo. Ma dura poco. La brevità, gran pregio. Autora dell'assedio. Questo internet ti fa morir di legna. Presto. Atto secondo. Non far sussurro. Pensiero profondo, sto color in quell'azzurro guizzo languente scuro d'ardente scena d'amore scoppia con voglio. La cerambace creati orgoglio d'un colpo vir. Alle le pagine desintegra quella la terra a passare. Oddio, già s'abbassa la fiamma e varo che fragile dramma. Già scricchiola in crespa si muore. Abbasso, abbasso la legna, tigre, urdo, legna, palma, letto, vizze, luna, vera, vive, singe, destino, matta di plascia, per voi non sclancia. Sei sordo, sei lì con quest'uomo, chi è? Luigi Filippo, mentre non mi ha messo Luigi Filippo, è nuovo Filippo. Or vi dirò, quest'oro, o meglio argento, alla fama di storia, nel cammino, confronto sul resto, un inglese, un signor, tutti in nuova, un minore, un signore, un musicista, via, e Maria, via, un maestro, dove? Io, e mi presento, ma c'è tenito bando, quando le lezioni. Mi ripresento, ma c'è tenito bando, ma quando le lezioni. Risponde in ciao, miccia. E badare, che papagallo, ma di tranquillo pianto. Poi soggiunge, poi suonate, finché quello un po' vive. Da sempre non sono stati mai. Ancora l'incanto, di mia presenza bella, di mia presenza bella, ma quando è bella. In sostituzione. Ottima cosa, se penso, se non prendito. L'orito all'argo l'orito allargo l'ali, l'orito il becco aprì. Un corpo di prezzemolo da sopra te morì. Chi? Che il diavolo vi porti tutti quanti. Ed or che pade, no! Queste cimarie sono la salmeria. Quei di futuri tenebrosi oscuri pranzare in casa il dì della vigilia mentre il quartier latino le sue vie addobba di salsicce le cordiere quanto lezzo di frittelle imbalzava le vecchie strade vecchia andano contente. Amici di amico, in casa, ma si pranzi fuori. Si può, non c'è nessuno, è chiuso. Affitto, dammi una sedia. Presto! No, no, correi, correi! Andiamo a bere! Grazie! Confiamo! Beva! Confiamo! Questo è l'ultimo trimestre! No, piacere! E quindi ancora un sorso! Grazie! Confiamo! La sua salute! A lei ne vengo perché il trimestre scorso mi promise. Promise d'or mantello. Che fai? Sei pazzo? Ha visto? Or via resti un momento in nostra compagnia. Gli anni per carità! Su e giù la nostra età! Di più, molto di più! Lo su e giù! L'altra sera, al mobile l'han colto, in peccato d'amore! Io! Al mobile, l'altra sera l'han colto! Neve! Riccone! Seduttore! Riccone! Una quercia, un cannone! Un uomo d'augusto! Il prigionato è fulmine! Perché sei ricco, vado a decenza. conoscenza la prima volta con parmi tonsore e dopo mia ridicolosa già d'ombra solo andiamo andiamo io resto per terminar l'articolo di fondo del pastore a presto cinque minuti conosco il mestiere trasporteremo da passo dal portiere parli un dorai che coro cinque minuti taglia corta la coda al tuo castor adagio Accidenti! Folline, sei morto! Non ancora, presto! Sono in vena. Vi era una donna. Sente meglio sì. Qui c'è tanto freddo segga vicino al fuoco aspetti un po' di vino grazie a lei poco poco così grazie che bella bambina Quanta fretta! Sì. Grazie, buonasera. Buonasera. in verità. Thank you. volo. Chi son? Amici. Non son solo, siamo in due. Andate da Mus, tenete il posto, ci saremo posto. O soave fanciulla, dolce riso, di vite gira confusa al mandar. Oh, Thank you. Piano! la seggia! Quella gente che dirà... Amor, 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 你好，亲爱的朋友，欢迎收听歌舞剧场。在接下来的时间里，将继续为您带来普契尼的歌剧《艺术家的生涯》第三幕、第四幕录音，由帕瓦罗蒂、科特鲁巴斯、卡布奇里、波普等演唱，卡洛斯·克莱伯指挥斯卡拉歌剧院演出。 È freddo, entrate. Nero, sì. Non posso entrare, no, no. Perché? Mi cerca, viene e non mi vea. Or rincasatemi per carità, non fate scene qua. Non basta mai.

Saluto ridendo, oh, Musetta venissi e il cuore non batte, ora lo sento. Grazie velluto che il copre, gusto da bene, c'ho gusto da bene. Maiora, ti rodi e ridi, non batte, no, bene. Vista, oh, guarda, ed è Carlotta vestita come una regina. Evviva, ne son contento. Un giardino si strugge d'amore. Lavoriam. Che penna infame! Penna! Pezzosa damigetta, rispetto io la prego. La la la la la. Ma non se la la la la. La ciarlando. Bestia. Che modi darla a te? Ferro dei mottaccio. Su di ferro. Non ti assaggia. Il tuo sangue a bagnole. Jimmy, Jimmy. non parlar, non parlar. Guarda piano di me. Marcella, materella, ti assai buona musetta. Lo so, lo so. Thank you. Forno al nido la rondine cinguetta. Thank you. 听众朋友，今天的歌舞剧场就到这里了，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道接下来的精彩节目。 Come se addosso mi piovesse in stelle per vendicarmi a fuoco un faraone. Che fai? Dei cieli vigi guardo fumar dai mille pomignoli di Parigi e penso a quel padrone, vecchio gabinetto e dannatore, che vive in ozio come un grande signore. Le sue rende foreste, mezzo non ricerca. Le sue rende foreste, che fa sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo. Un freddo cane! Ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. Pugliacciate le dita! Correggeressimo la peggio in quella grande acciaia che muore di ricetta. L'amore è un gabinetto che sciupa troppo e in fretta, dove l'uomo è fascina e la donna è l'alare. L'uno brucia in un soffio e l'altro sta a guardare. Intanto qui si gela e si muore di nedia. Fuoco ci vuole. Aspetta, sacrifichiamo la sedia. Eureka! Provasti! Sì! Salmeria, poi di futuro. brosi oscuri. Pranzare in casa il dì della vigilia, mentre il quartier latino ve sue vie addobba di salsicce le corniere. Quando l'orezzo di frittelle imbalzava le vecchie strade, ma le ragazze cantano contente, la vicina di Thank you. Sono in vena. Gliela così una donna. Un po' di vino. Grazie. Allora.